Eccoci arrivati alla fine di questa. Allora, aspetta. Un attimo, prima una cosa dobbiamo dire. Io e Massimo Maneggio ci siamo incazzati con Pietro. Querela, quereliamo Massimo. Datti getto. Noi siamo. Attenzione che devo fare uscire e non facciamo pelle, che si ingazza, dopo. Era madonna mia. Mamma mia, che freddo! Qua, sentite proprio quando non capisci. No! Sia cristiane, sì! Sì, mi fai continuare. Casificio Roberti. È Borgo Antico. E mille bolle blu azzurre, come la chiamavamo. Domani l'inaugurazione! È stata ieri, io vado avanti. No, va, senza come va, vabbò. Non è una parola stasera, mo. Fino a mo' ho mangiato. Dove c'era toccata a Conte? No. A Juventus. Ma Conte era Juventus. Caperai, che squadra. E poi Pangolo che aveva spazzato 2-0. Su Milanista. Ecco, arriva, aspetta, facciti parlare di te. Arriva il nano matto. No, vorrei ricordare comunque che comunque mercoledì noi giochiamo alla PlayStation, ma domenica quando è aperto il campo, voglio addio, va. Basta sta che il comune ci ha promesso che mercoledì e martedì è comunque aperto. Basta fa. Arrangiato figlio di Zingari Cusenza. Sì, comunque Pietro, te lo potevi evitare questa cosa sul conto della Juventus, sarà prossimo Milan. Pietro, sei un mito. Pietro. Pietro, fai il lecchino della situazione. Non ti preoccupare, che puttana ne paghi dopo. Il microfono. Pietro, meno male che sei fidanzato, se non è qua, Emilio, sai come la trovo? Sacrificio. Facciti mi ricordare cosa sei. Sacrificio! Mi fate ricordare una cosa, se ti giusto. Posso? Abbiamo cambiato il sito della chat, mo ti sta gitto, fa culo. È una cosa sua, Ci siamo spostati su www.chat.it. Solo per la chat. Cercate il gruppo web Radio Luzzi, da lì fate entra nella chat, entra in chat. Poi se volete registrare, vi registrate. Se no fate entra come ospite, inserite un link, sarete linkati direttamente in un'altra finestra alla chat. Da lì troverete sicuramente qualcuno di noi che, a differenza della vecchia chat, modera la nuova chat. In modo che se qualcuno dà fastidio, segnalate il link e noi mandiamo a chiedere il tuo paese. Emilio c'è sempre, almeno uno c'è sempre. Poverino, come dici? Chi ne volesse portare a voto? È la massima d'Emilio questa. Opa! Mamma mia, stasera stai dando il meglio di te. Proprio la finezza fatta persona. Sì, meglio del peggio di mille la finezza. La finezza. A dov'è? Sta mangiata. Sta mangiata la finezza. Ma la finezza prima mattina. Borgo Antico di stasera è il lutto, boh, non lo so. Chi tieni? Chi te buon tu? Compleanno. Prego. Ma porta a Dur, ciao, sono tanta curi, però ha letto che venerdì è stato Santo Carlo e ha portato i dolci a differenza di qualcuno. E quindi portami dolci. Ma porta dolci una volta all'anno. Ma il prossimo dolci che avevi maneggio. A caffè 50 anni quando si sposa. Ma maneggio ha portato un civasse, ancora ci vasse là, eh. Voi non vada Pirto, mica io te dirà. Non bevo alcolici. Nemmeno io. Oh cazzo. Ha disinfinito. Ma sto pensando. Sto pensando a te. Cici, ok, sì, allora. Cagliolo, pallone va di casa proprio a pennello. Da chi? Proprio, così. Sono triste. Emilio è depresso. Sono depresso. Sì, lasciamo fricare. Sono represso. Fatevi l'amicizia su Facebook. Sì, perché non. Sì, sì. E poverino è solo, non lo vedete? Cancellatemi l'amicizia. Lasciatemi anche voi. Che hai detto, Andrew? Scusi, salutiamo di nuovo tutti gli abitanti di San Sosti. Si rompe pure il tavolo, ti romba a capo. No, giù. Siamo tutte le sedie. Il tavolo no, Emilio. Ragazzi, è seggio. Emilio ha rotto anche il chip. Se volete assumerlo come spacca legna. Chiamate Emilio. Che pubblicità bella che mi fai, sì. Ma Calegna Emilio. Ah, Emilio. Ricorda i cuccioli che devi dare. Ah, e se c'è qualche anima pia, no? C'ho 7 cuccioli da dare. Di bastardini. Sono colore bianco sporco, lordo. Scusate, bianco lordo e fabbrica. Sì, su di fabbrica, ma sono talmente carini. Padre possibile un labrador. E madre? Madre. Non so. Mi spiace, no, non ti capisco. Io da sera, no, guardavo e ci diceva, ti è piaciuto, eh? E mo ti codici, t'accodici i cuccioli. Io già mi guardavo e una cosa che mi voleva mandare a fanculo. Ti ci ho mandato, guarda. Con tutto il rispetto, siamo animalisti, tutto il rispetto. Pure l'Accademia mi manda a fanculo. Mi spiace, ne tengo già 4, non ti posso aiutare. Io segno a 9, quindi. 9? Era purpetti. Dove va, cara? Bene, allora salutiamo tutti. I purpetti si mangiano sabato a domenica, è meno classico della sabato e domenica. Maccarone e purpetti, no? A domenica, ma non hai capito perché mamma. Dipende, sabato. Ancora anticipa sabato che le fa fame, Carla. Non lei ma sabato un giorno, raga. Beh, sabato si fatica. Bella, ecco, vieni, saluto. Chiudiamo sabato. Ciao. Ma però te la voce quando è corta, era Juventus, mo è sparito tutto. Mene, ciao. Ciao, Mane. Ero così. Salutiamo. Ero Coop, centro unico di prenotazione per Diaga Bene. Vabbè. Sto facendo un bagno a Londra. Un bacio, amici. Ciao. Vai, Carla. Ciao, raga, grazie. Buonanotte a tutti, ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre non aprite con la persiana. Mercoledì speciale Simoncelli.